chi non lo è la prima volta che viene, siamo all'Ex Alce, è un'associazione di promozione sociale. E stasera assolveremo il nostro compito con una buona presentazione di un libro. Loro l'ha letto? L'ha letto. Più cioè, penso. Io non so le domande, però. Ci siamo passati. E... va bene, allora. Per iniziare, le cose base, una domanda facile, sì, vediamo se sei preparato. E, allora, se ci puoi illustrare proprio inizialmente quello che succede nel libro alla luce del titolo Primavera Tardiva, cioè per aiutarci a comprendere un po' questo titolo qua. Primavera Tardiva. Beh, chi l'ha letto, e poi a me piace tanto raccontare una storia che in realtà non è il massimo, cioè anche quando vado a vedere un film mi piace saperlo e raccontare, però non bisognerebbe parlare troppo della storia. Comunque Primavera Tardiva è una coppia di amanti che una volta all'anno fanno questa vacanza molto sentimentale, adolescenziale, che la chiamano appunto questa Primavera Tardiva. Quindi è una loro primavera che non c'entra con la primavera dei mesi, del tempo. È un loro momento in cui staccano dalla vita normale e riprendono ad amarsi, riprendono sì, esattamente come quando si sono conosciuti. Avanti. Ma che non vorrei raccontare tutto poi della trama. È un loro momento in cui ritornano molto legati, ripensano a loro come coppia, a loro stessi, che pensano di conoscersi. E quindi si fermano un attimo dalla loro vita normale. Quindi loro sono una coppia milanese medio borghese, si sentono molto culturalmente a posto con loro stessi, si sentono una coppia normale, giusta, riuscita, e appunto ritornano a essere non marito e moglie, ma ragazzi adolescenziali come quando si sono conosciuti in questa vacanza che fanno di una settimana. E nel libro vanno alle Lofoten, che sono delle isole che a me piacciono molto, sono stato solo una volta, in Norvegia, e quindi molto come paesaggio distaccato dal loro contesto. Lei ama molto il mare, il Mediterraneo, invece sono catapultati in una natura molto nuova, forte. No, infatti questo poi era l'altra, cioè le Lofoten c'è un motivo particolare, è solo legato al fatto che è un contesto. Mi sono piaciute, magari. Poi non è che l'ho ragionato molto razionalmente, è l'unica cosa che ho scritto che me la sono sempre vista come un film, per caso, perché non mi capita. Abbiamo giocato a carte per un mese ogni sera e parlavamo, scrivavamo un po', e avevo questa come sceneggiatura, giorno per giorno, di una vacanza dei due innamorati. Mi è sempre piaciuto le Lofoten come paesaggio, e quindi io ho pensato di ambientarle lì, anche perché loro hanno gusti, usi, costumi, pensieri completamente italiani e mediterranei, e quindi per metterli proprio a una parte più esplosiva, dirompente, vanno in un contesto molto a loro lontano, specie quando lei sparisce, che quindi lui è completamente perso perché non ha nulla che conosce o... Sì, però mia cugina. Non che... no, ma meglio. Adesso non lo vedo più. Ma allora, cioè, se non vogliamo. Dalla regia magari... dicono alzare la voce. Alziamo la voce. Se non vogliamo, esatto. Tanto magari arrivarci tramite la trama, potremmo. No, ma a me piace, però parlerei solo della trama. Cioè, io quando vado a vedere un film mi piace sapere prima di cosa parla il film, perché se non è commedia e pesante, non vado a vedere. Però non è un gran consiglio, cioè. Uno che dipinge e che racconta tutto il quadro non è il massimo. Infatti dicevo, per non parlare della trama, magari ad esempio attraverso la prima frase che c'è scritta all'inizio del libro, la citazione, che se vuoi ti faccio leggere, e magari ci racconti i temi che tratta l'opera, ecco, che sono trattati nell'opera, per leggere la frase. Lei non ha capito niente, perché lei è un uomo medio è un mostro, un pericoloso delinquente, conformista, razzista, schiavista, qualunquista. Lei non esiste. Pier Paolo Pasolini. Questa frase che appunto precede il primo capitolo, secondo me diciamo che ci dà degli elementi per immaginare quali siano i temi cari all'autore, ecco, nel corso della storia. Ce ne puoi magari spiegare alcuni? Ma allora, sicuramente l'ho scritto come critica, cioè tutto quello che a me è passato di Pasolini proiettato all'oggi, nel consumismo più totale. Ma l'ho voluto fare come saggio di estetica, infatti effettivamente il linguaggio, c'è una ricerca, è sommo, quindi ha dei pro e dei contro, ma l'ho fatto per me, mi piaceva in quel momento giocare con le parole. Non saprei minimamente riscriverlo, cioè se penso ai grandi scrittori che magari Nino Campana finisce in manicomio, deve riscriverlo a memoria, De Sade fuori dal manicomio, io mi sparerei in faccia, non saprei minimamente rifarlo. Né lo rifarei tale. Quel momento mi piaceva questa parte di estetismo, c'è una parte un po' d'annunziana nello scrivere, può piacere o no. E poi se mi fai una domanda su questo mi ricordo, ne parliamo. No, sì, poi più che cioè lo poi stile. Le domande quali sì, facciamo noi? Io posso rispondere o rinviarne anche. Io invece dicevo sì, più che la parte stilistica. Cioè. No, e quindi l'ho fatto, se mi stavo perdendo, e quindi l'ho fatto molto sull'estetica nello scrivere, ma su un contesto non normale, però in realtà parla della normalità, cioè nella definizione quella di Pasolini, a noi quasi tutti, cioè gli viene l'idea che è facile etichettare un contesto sbagliato, per cui dire l'uomo medio è chi non studia, l'uomo medio è il fascista, l'uomo medio è il novax. Alla fine si capisce proprio che l'uomo medio siamo tutti noi che viviamo in una sfera di cristallo, quindi siamo noi che magari studiamo per dire io so, tu non sai. E quando lei, il suo grande amore, che poi si accorge quando lei sparisce di amarla realmente, quando sparisce si rende conto che tutte le sue certezze che noi possiamo avere per il lavoro, per un posto, per lo studio, per quello che volete, sono vane. Quindi sono proprio perché sono certezze. E quindi è questo che vorrei proiettare di Pierpaolo, appunto. È legato a tutti noi, l'uomo medio, non è facile etichettare, trovare uno sbagliato nella società, ma siamo noi normali in realtà che siamo dei grandi punti di domanda e non ci facciamo più domande. Accettiamo, lui crede totalmente di amarli, in realtà si rende conto quando lei sparisce di amare quel che a lui piace, che però non è lei. E, però l'ho voluto fare in un contesto completamente passionale, che possa arrivare a qualsiasi persona, cioè uno può leggerlo e dire è una storia d'amore, capisco le bestemmie che lei sparisce, la depressione che può provare ognuno di noi, puoi vederci Pasolini, puoi vederci chi vuoi, puoi non vederci nulla, però è una storia d'amore che ti può capitare. E credo che siamo nel postmoderno, quindi partire su un'analisi storica della storia contemporanea diventa, ti viene il sangue amaro, diventa impossibile. Perché ora che stai a spiegare, a dibattere, a scontrarti, a spiegare la strategia della tensione, il legame con la strategia Stato-mafia, delle basi che bisognerebbe avere perché in Italia abbiamo un brutto rapporto con la storia contemporanea, diventa impossibile. Credo che sia meglio nel postmoderno invece partire dalla bellezza, dal paesaggio, da cose che a tutti noi toccano, senza andare a riscoprire cos'è stato il Novecento, proprio perché sennò uno si perderebbe, potrebbe risultare divisivo. Mentre come scrivere su una storia d'amore, come linguaggio molto con l'inglese, molto postmoderno, con le abitudini, con i loro piaceri totalmente edonistici, ognuno di noi può ritrovarsi in una storia, in una vacanza amorosa, ecco. Sì, che cioè allora questo mi fa. Quindi Pasolini può essere tutto come può essere nulla, questo è il mio messaggio, però in una roba ognuno ci vede quel che vuole ed è giusto così. È per questo che non ho voluto farlo in alcun modo ambientato in un contesto politico nel novecentesco, perché è divisivo e non si riuscirebbe a avere nessun fine comune. Cioè allora dico dalla letteratura, cioè ritornando alla realtà, no? Insomma, quanto è necessario, cioè, uscire dal quotidiano, questa è una domanda in verità più di carattere personale, quanto è necessario slegarsi dal quotidiano, tra virgolette uscire per un attimo dalla società per poter esercitare su essa uno spirito critico, perché sembra, no, in questo senso la primavera tardiva, cioè che dall'idillio, dal uscire un attimo dagli schemi, ecco che poi diventa uno spunto per fare delle riflessioni che sarebbero impensabili nel quotidiano. Sì, credo appunto che nel postmoderno dobbiamo abituarci a concepire, proprio perché oggi dal punto di vista scientifico, non politico o personale, la precarietà è più forte che mai, per ogni minuto i cambiamenti climatici, la spiaggia che si ritira e non tornerà più, lo scioglimento di un ghiacciaio, la desertificazione che tra 40 anni prenderà anche la pianura padana, quindi è una roba che arriverà a tutti, anche se noi viviamo, non avendo più rapporto col territorio, viviamo in un bellissimo mondo fatato in cui ci sentiamo giusti, ma è completamente lontano dalla realtà. E trovo appunto che parlare di una roba di vita comune, di quotidiano, sia importante. Quello che vorrei fare, la mia, scrivo per me, quindi quello che a me piace, vorrei lasciare, è trovare, ritornare a essere umani, cioè trovare la passione all'interno di ogni cosa che noi diamo per scontato nel quotidiano. Perché ogni primavera, ogni fioritura non è più scontata, non è mai stata, è sempre stata poetica, però vista in maniera un po' intellettuale, elitaria, dalla poesia. Dovremmo invece concepire come sacro ogni parte della vita. Sia perché da un punto di vista scientifico dovremmo svegliarci, ma al di là di quello è anche un invito al carpe diem, quindi non trovare la semplicità e non la banalità più. Dalla politica, concepire per sacro, non pensare più di fare il viaggio edonistico, di andare dall'altra parte del mondo, se poi non conosciamo magari 20 km di distanza possiamo trovare molto più sacralità. Ma questa è al di là della precarietà di oggi, cioè poteva farlo Dino Campana che viene in Lombardia e rimane da un paesaggio completamente diverso dal suo, non è che ha fatto tanto di distanza e non era 400 anni fa. E riuscire a trovare la passione in ogni contesto in cui siamo. Il tema di fondo però è un mio pensiero, è che non basta in maniera teorica arrivare a una bellezza sociale, politica, un'armonia col prossimo. Senza paesaggio non è una grande vita, appunto. Al di là di noi umani, ma la natura è parte della realtà, non è, la realtà non è opinabile, è. Poi noi possiamo vederla o non vederla, farci le nostre pipe mentali politiche, però senza la parte di paesaggio non è un gran vivere. Lo stiamo capendo molto in ritardo per me. E dovremmo invece ogni quotidianità vedere la sacralità che c'è dietro. Quello di cui tu adesso hai parlato, cioè proprio un cambio di paradigma, cioè dovremmo proprio cambiare il modo in cui ci rapportiamo al territorio, il modo in cui pensiamo anche, cioè il nostro agire politico non solo improntato a appunto una buon contesto sociale, ma anche a preoccuparsi di cosa genera quel contesto sociale, quindi un paesaggio, delle risorse di cui ci dobbiamo curare in modo non insomma mercificato, ma anche cioè, cercando di intuire il legame tra il paesaggio e il benessere dell'individuo e della società. Di fatto, cioè, noi potremmo riassumere il romanzo come un passaggio, una metamorfosi da parte del protagonista da una condizione di uomo medio, quindi di persona incapace di individuare questa cosa, caratterizzato da una immensa fiducia nel progresso, nelle capacità umane, anche disinteressato alla bellezza artistica, disinteressato alla bellezza naturale, disinteressato alla storia dei territori. C'è una scena all'inizio in cui la Ines, la fidanzata, gli legge delle cose riguardo al territorio e lui è totalmente disinteressato, mentre poi piano piano si... cioè diciamo... dopo la scomparsa di Ines avviene un cambio di idea, un cambio di mentalità. Io vorrei concentrare sull'aspetto più triviale di questa cosa, ossia cosa causa questo cambiamento. Adesso, può essere casuale, tu puoi aver scelto un elemento traumatico casuale, quindi la scomparsa della persona amata, che però può avere lo stesso impatto di tanti diversi traumi, non so, perdere il lavoro, perdere una certezza. Però allo stesso tempo, nella prima parte del romanzo, tu ti concentri molto sulle dinamiche anche, cioè, di coppia, di cosa significa l'amore nel postmoderno, di cosa significa amarsi e, come dire, vivere l'amore nel postmoderno, perché ha proprio delle caratteristiche precise la relazione che Ines e Edoardo hanno, riconoscibile, che si ripetono. E quindi ti volevo chiedere se Tu hai anche una riflessione su cosa è l'amore nel postmoderno e come può contribuire a questa passione e come invece sta venendo annichilito da quello che succede all'esterno, oppure se è tutto nella mia testa e il fatto che il trauma derivi dalla fine di un amore non è assolutamente influente in questo cambio di paradigma e di mentalità da parte di Edoardo, del protagonista, insomma. No, ho scelto proprio l'amore perché credo che sia la cosa che arrivi tutti e la cosa più realistica, perché un treno affischiato, non so quante persone sentono, vedono una ciminiera e gli viene la parte metafisica che hanno un ripensamento ontologico. Se invece subiscono un trauma, può essere perfettamente il lavoro, in maniera totale, è chiaro che questo accelera una tua sberla che prendi in faccia. Quando la tua vita è perfettamente per te giusta, che cosa voglia poi essere, o civile, ecco, civile, quando iniziano una cosa a andare male, poi per una o va tutto bene, o non è sempre domenica, una roba va male, quando iniziano due o tre robe e prendi le sberle, allora forse lì ti riesce un attimo a localizzarti, non in una parte culturale, ma in una sberla di umanità. Sull'amore, credo che il paradosso del postmoderno, che poi, cioè, non vorrei farla in termini pasoliniani o storici, uno può crederci, non crederci, uno può dire per me siamo ancora, è sempre stata così, la vita è sempre stata su e giù, prima nel 500 non c'erano ghiacciai, c'era molto più caldo, adesso ci sono, la crisi c'è sempre stata, bene noi che non abbiamo la guerra, non è che oggi sia una parte che oggi va male, prima era bene, questa è una roba che anche Calvino rimproverava Pasolini di rimpiangere l'Italietta, che non ha alcun senso. Dico però che ogni secolo ha la propria merda che ti tiri dietro, come le proprie cose belle, nella vita di ognuno di noi. E penso che oggi che abbiamo qualsiasi forma di libertà, poi uno può dirmi no, certo non le abbiamo tutte chiaramente, ma rispetto a secoli fa ne abbiamo totalmente, anche se stiamo molto regredendo come diritti sociali, nel vivere bene, nel paesaggio, l'accessibilità alla bellezza è sempre più costosa, abbiamo un paesaggio sempre più di merda, per chilometri e chilometri per vivere bene hai sempre più bisogno di una botta di culo o un finanziamento economico. Comunque oggi viviamo degnamente rispetto a tanto tempo fa, magari una volta il paesaggio era bellissimo, ma la gente aveva 9 figli, la gente lavorava, si spaccava la schiena, stava di merda. Quello che oggi però per me fortemente cambia è che non abbiamo più nessuna restrizione rispetto a un tempo, non abbiamo nessun tabù, possiamo scrivere e dipingere quel che vogliamo, non si sa per chi, però possiamo farlo con una pseudo libertà. Ma nell'amore credo che sia il più grande tabù, cioè oggi che non ci sono tabù su nulla, che puoi dire, fare quello che vuoi, l'amore sia oggi una sberla in faccia. Cioè prima c'era molta più, poi non prima, però la cosa della quotidianità dell'oggi nel postmoderno è che c'è una difficoltà completamente inspiegabile nel rapporto, proprio perché abbiamo perso un po' di umanità nell'approcciarsi con il prossimo. Quindi se prima uno non poteva avere una casa al mare, non poteva andare in montagna, non poteva permettersi di andare in discoteca al sabato nel villaggio e fare quell'edonismo, adesso che può tutto, la cosa assurda è che per dichiararsi affettivamente o per stare bene deve costruirsi razionalmente un concatenarsi di edonismo, di serate, di abusi, di per dire quello che prima magari che avevi molto meno, c'era più umanità, riusciva a essere... Non è che prima si era poeti, non si aveva nient'altro, si era molto più umani. Penso per esempio a quelli della prima guerra mondiale, che il marito andava via, la moglie rimaneva fedele al marito. È chiaro che la moglie non rimaneva proprio fedele al marito e che lo aspettava perché il paesino era di 30 anime, finiti quelle metà magari erano donne, non c'erano altri. Dall'altra parte penso che uno fino a 50 anni fa, se avesse avuto una casa al mare, se avesse avuto una buona uscita il sabato sera di una certa entità, sarebbe stato 45 volte più divertente e avrebbe avuto un approccio amoroso molto più florido. Quindi questo è il paradosso, credo, che oggi che possiamo tutti, che possiamo pensare di fare qualsiasi viaggio nel mondo, di farci dei weekend, che stiamo dei mesi a organizzarsi, si perde quella parte di umanità invece che prima magari non c'era un cazzo da fare, però veniva molto di più, ci scopriva molto di più, per dire, anche se non potevi fare nulla, magari dovevi lavorare fino alle 9 di sera, magari dovevi stare a casa, dovevi avere il coprifuoco alle 11 perché in un paesino nel nulla, magari non potevi, avevi una difficoltà che dovevi andare dall'altra parte, camminare nell'altro paese pur di vedere una persona perché i genitori non volevano, la società non volevano, tu non potevi esprimerti, Adesso che poi tutto c'è il paradosso invece che c'è una difficoltà nell'approccio umano, amore in senso sessuale ma anche amichevole, nel senso vario. E lui lo scopre quando non c'è più lei. Quando non c'è più lei dice, cazzo, ma tutti, io non ho dei grandi, non ho molti amici. Tutti quelli che ho incontrato nella mia vita, strade lavorativamente parlando diverse, io di lei non so nulla, è piemontese, non so nulla del suo territorio, di tutti i suoi parenti, dei suoi amici, del perché lei ha questi gusti, del perché lei ha queste passioni. Vado in un posto, mi sento io il numero uno di Milano perché sono moderno, voi siete dei poveri dementi, ma io vado in un posto e non mi lascio neanche nulla di umano. Anche questo, prima magari facevi un viaggio, poteva essere 2 chilometri o 200 chilometri, era uno scambiarsi comunque, un impatto di due realtà umane diverse. Per forza di cose, magari non avevi soldi, andavi in un bar, ma in qualche modo veniva più la parte conviviale. Lui si rende conto che finito lei, si ripensa profondamente in questo. Inizia a legarsi, a parlare, viene reinvestito da tutta una vita che magari ha trascorso ma non ha vissuto tanto, quindi del suo rapporto con i parenti che poi non ha più sentito nulla, degli amici, della Milano di un tempo, sbaglia, va in errore, è incerto, ma proprio in questo torna umano. Ma ti volevo chiedere se dici che sostanzialmente le libertà in potenza sono molto maggiori per vari fattori, sicuramente culturali, sicuramente economici. Allora questa, tra virgolette, questa censura da dove arriva? Ti do la mia risposta. La mia risposta è che la censura in una società dove puoi essere tutto parte dal soggetto stesso, che non è più in grado in verità di esprimersi liberamente, perché nell'atto dell'esprimersi tiene conto di tutta una sovrastruttura, chiamiamola, che è anche patinosa, fumosa, che spesso esiste solo nella teoria, ma che lo condiziona. E ritornando, che per me è una domanda abbastanza fondamentale, cioè quindi al concreto, anche al presente, nel senso alla funzione dello scrittore, no? Cioè come si... Poi è una domanda che pongo a te e che pongo anche a me, che pongo anche a te. Cioè come si può... Qual è il ruolo dello scrittore oggi, insomma, perché sì, cioè rifuggendo dall'essere sempre, no, in una direzione a prioristicamente ostinata e contraria, intendo più lo scrittore nella come fa ad assolvere la sua funzione critica, che per assolvere, secondo me, è necessario stare dentro la società per poter divulgare quello che si sta facendo e allo stesso tempo starne un pochino fuori per cercare di comprendere i meccanismi in modo più oggettivo. Quindi come si colloca? Non si colloca. Non serve assolutamente a nulla. Non bisogna generalizzare, non voglio dire che non esistano o che non aiutino o che non siano importanti. Dico che la cultura non ha quasi più un peso, è solamente un fine. Cioè dire io so, tu non sai. Vai nell'ambito accademico, ma nell'ambito della vita normale non aiuta più a vivere bene. E quando Pasolini era ancora vicino più al PC, scriveva Paese Sera, c'era una lettera che mi era rimasta impresso di un operaio che tornava a casa in Sardegna e diceva: io ho 7 figli, faccio una vita di merda, io la sera a lume di candele, non c'è neanche elettricità, sto imparando a scrivere e a leggere. Perché a quel tempo la cultura era un mezzo per vivere, perché al di là della parte filosofica, che la cultura ti rende libero, eccetera, eccetera, che è vera, ma indirettamente. Come schiaffo di realtà, quell'operaio lì voleva leggere e scrivere perché cazzo gli serviva, poteva fare una vita migliore. Oggi per me, no, non voglio generalizzare, non dico assolutamente, la cultura è un fine, non è un mezzo. Perché proprio dall'analisi che la storia classica è finita, non ci sono più né contadini né artigiani. Quindi viviamo in questo modernismo in cui la cultura si può aiutare, ma in fin dei conti chi realmente fa una parte universitaria non trova lavoro. O si suicida. Sì, o si inventa, tutti i grandi umanisti si reinventano in 80.200 cose. C'è un'egemonia culturale, che anche lì uno può crederci o no, ma c'è sempre un'egemonia culturale, perché noi non lasciamo Zarathustra, non lasciamo tutti i gramsciani, e gli stessi, lo stesso Gramsci, la cultura per lui è stato un mezzo, perché se fosse rimasto nella sua parte piccola borghese sarda non avrebbe intrapreso nulla come formazione. Non è che uno nasce così, può essere più illuminato o meno, ma devi formarti. Ma il tempo serviva, era un mezzo. Oggi io credo di no, nel senso che quello che conta è comprare e vendere. Nel comprare e vendere siamo nel postmoderno, non c'è più legame col territorio, e molto nel terziario, nel quaternario, conta la furbizia, conta la fatica, il culo, quello che ha sempre contato nelle doti imprenditoriali, meno che la cultura. E l'egemonia culturale, che poi mi stavo già dimenticando, l'egemonia culturale c'è sempre, cioè vuol dire che c'è un pensiero dominante che ti influenza. Non dico che sia giusto, è sempre stato così e sempre sarà. Può essere l'universalismo cristiano, poi ci sono anche controculture che oggi non abbiamo più, questa è anche un'altra roba. L'egemonia culturale neoliberista è lo schiaffo in faccia in cui per me dagli anni 80 a oggi si è realizzato quello che voleva Pol Pot o Mao. Se tu hai gli occhiali, leggi un giornale, sei un radical chic, sei da guardar male. Pol Pot sparava a tutti gli intellettuali, chi aveva, non è che adesso sparasse, però voleva creare dei capri espiatori. Quindi quello che non è riuscito la dittatura comunista è riuscito dagli anni 80 con la globalizzazione. Oggi se uno già si impegna, ma non in un impegno politico, ma in una roba che cazzo gli piace a lui e che vuole condividere, perché crede che lo stato delle cose è solo un primitivo, non possa cambiarlo, che lo stato delle cose è sempre quello e la cultura è sempre servita appunto a vivere meglio insieme. Uno può anche fregarsi di tutti gli altri, essere nichilista, ma comunque per sopravvivere ha bisogno. Ecco, oggi c'è molto questa caccia alla parte culturale, quindi anche quello sicuramente influenza. Penso a Leopardi, scrisse le operette murali nel 27, aveva neanche 20 anni. La Mantegna, che io adoro, fece la cappella, i Betani, bombardata dagli alleati, aveva 19 anni. Michelangelo, la Pietà, la fece a 19, la sua massima perfezione, che poi lo portò a essere più avanguardista di tutto il Novecento, arrivare al non finito. Ma cazzo, quella è una cultura che loro già a 20 anni erano in mano. Oggi puoi fare un percorso che fino a 30 anni non ti serve a un cazzo, e poi nei fatti l'economia è la mano invisibile che sempre c'è, è idiota pensare di cancellarla. In economia oggi la cultura non serve più un cazzo, perché per fare una parte commerciale, non essendoci più spazio economico, poi non voglio dire che assolutamente sia cretino leggere, cioè, anzi, però che non è, nella realtà non serve a nulla. Se leggi, ti formi, prima era indispensabile per ogni politico, per ogni industriale, ma anche Pirelli non si permetteva di dire su ogni fatto che della società una sua stronzata che parlasse di pancia. Oggi invece se parli di pancia va bene, se invece hai un pensiero critico sei un povero coglione, sei proprio etichettato esattamente come si fece nelle dittature comuniste nel mondo orientale, nel mondo sovietico un po' meno. E quindi che ruolo ha lo scrittore? Avrà sempre ruolo, credo oggi sia molto difficile. Penso c'è una bella intervista su Camilleri negli anni 80, proprio si combacia la regione culturale, in cui dice quanto l'Italia era 50 milioni, dice 2 milioni sono totalmente analfabeti e noi continuiamo a avere questo bellissimo primato. Vabbè, poi c'è anche l'Est Europa, che ormai è Europa, che quindi è un po', vabbè, comunque non si è messi bene sull'analfabetismo. 12 milioni sì, sanno leggere e scrivere, ma si sono completamente dimenticati perché non gli serve nel lavoro. Poi ce ne sono altrettanti di ritorno, che quindi sì, sanno leggere e scrivere, ma non sa anche cazzo, ed ecco spiegato anche 20 anni di berlusconismo o il ruolo dei mass media, che non sono un male, ma perdere la parola è perdere la democrazia. Non serve leggere Pascoli, uno poteva essere, la cultura deve essere un mezzo, quindi non un fine, puoi sapere perfettamente, quello ho citato D'Annunzio, mi piace, ma è perfettamente un coglione a livello culturale per la società. Per me scrive divinamente, ma sono segmentale fino a se stesso, quindi non serve... oggi è un fine dire io lo so, ma per esempio sapere Dante in ambito accademico, se poi tu affidi Cristo alla Chiesa, non ti domandi perché sei cristiano, non commenti, non critichi il tuo tempo, e allora cosa serve sapere Dante? Non serve assolutamente nulla. Sapere Leonardo, conosce perfettamente Leonardo da Vinci e non sai nulla del territorio, e quando piove è sempre una pestilenza se arriva la pioggia, e non vai a esplorare 4 metri di casa tua, e quella conoscenza è fine a te stesso, non è un mezzo che ti aiuta a vivere bene. Sì, puoi vivere bene, puoi filosofeggiare, puoi parlare al bar, ma a livello democratico il problema è che non serve più a un cazzo. Sì, però adesso possiamo parlare anche di storia, che della storia del libro è un po' più leggera. No, va bene. No, beh, volevo solo chiedere se la chiosa di questo discorso è che lo scrittore oggi non è niente se è solo scrittore, se stiamo dicendo questo. Se si rassegna a essere solo scrittore non è niente, perché non serve a niente. Ma raccontiamo un aneddoto interessante. Noi ci siamo trovati da tanto tempo, nel bene o nel male, a scrivere, a parlare, di pubblicare, vero, che dobbiamo avere un'indipendenza di potere, vaffanculo, la società, riusciremo a pubblicare, avere una nostra indipendenza, non sei più trattato come un coglione, almeno puoi avere un lavoro effettivo che non è una perdita di tempo, non certo pensando però di avere una propria soddisfazione. Ci siamo scontrati col mondo dell'editoria, siamo tre completamente dementi, penso di parlare a nome di tutti, tu un po' meno però, certo. E ti scontri poi con l'editoria, ti trovi che non esiste più la figura dell'editore, la maggior parte che pubblica pagano per pubblicare. Non voglio parlare di Amazon perché appunto scontrarsi col Novecento si aprirebbe un divario, anche se sarebbe anche giusto, ma un momento, ah no, l'aneddoto divertente è che allora ci siamo trovati e abbiamo detto: senti, ognuno mette giù dei propri editori, li cerca, riusciremo a essere in qualche modo a farcela. Allora ognuno si è messo con le proprie doti a cercare qualche editore. Gli ho trovato questo qui che è terribile, tra l'altro la mia quarta di copertina ci sono due virgole sbagliate, ma anche tre, più di qualche virgola. È un editore terribile, perché cioè, l'editore in teoria dovrebbe editare, non è successo questa. Io lo trovo, avrei scritto anche merda, certo. Io invece ne avevo trovato uno. Lui poi l'ha cercato dopo un anno, è venuto fuori una foto del cane, perché era Savoiedo, era una razza di cane che avevo visto prima, me l'avevo segnato negli editori. Beh, è un aneddoto divertente. Questo era il mio massimo di ricerca, tu hai trovato questo, minchia. Speriamo il prossimo. Forse il problema è alla radice. Il problema è nostro sicuramente. Okay. Però ti scontri anche veramente che prendi sberle se vuoi scrivere, perché devi scrivere, perché non ci sono più i cani, tra l'altro non mi piace neanche tanto come razza, però conoscere fa bene, e quindi uno dice: perché scrivi? È quasi impossibile, non ha senso. Io sono convinto, come quando è un mese fa, quella grande virologa che a me piaceva anche, che ha detto che un bicchiere di vino fa malissimo, come si chiama la... Virologa? La Viola, che un bicchiere di vino fa malissimo. E io penso che anche lei, mi ricordo, forse Umberto Eco lo diceva: ti fa male la vista, diventi cupo, perdi la realtà, perdi l'amore, se vuoi andare a caccia, perdi la migrazione, perdi quel che vuoi. E quindi fisicamente, da un punto di vista scientifico, non fa bene leggere. Tanto più che se leggi per dire io so, tu non sai, cioè dico io ho letto Dostoevskij, non ti lascia un cazzo, non devi neanche leggere per me. E quindi appunto che deve essere un mezzo. Oggi però non serve più a un cazzo, e quindi c'è un handicap, mentre prima io penso che ogni grande politico di qualsiasi schieramento aveva dietro una formazione che era pazzesca, che non potevi non avere, poteva essere elitaria, ma dovevi averla, potevi scontrarti con la realtà, imparavi una lingua, la lingua che è sempre stata predominio dell'economia ed è giusto che sia così, c'era un universalismo pagano col latino, poi è riuscito a essere cristiano sempre col latino, poi il Mediterraneo non andava più, si è avuto vari capitalismi, la stampa, l'inglese, il francese, no, spagnolo 500, francese, inglese, forse sarà arabo o cinese, perché non serviva neanche. Però la lingua è sempre stata importante, la prima, per l'economia, è normale che sia così. Prima però era legato a un universalismo. tu imparavi il francese, tu dovevi impararti bene o male la cultura francese, gli scrittori francesi, la società francese, il cibo francese, tanto più con lo spagnolo. Oggi c'è l'altro pericolo, che noi impariamo delle lingue, ma il contesto di parole che noi impariamo è banale più che semplice, proprio perché la cultura è solo un fine, non è un mezzo. Funzionale, sì. È solo per interscambio, non hai più domande da porre né una grande diversità da apprendere, e quello è un altro problema. Beh, se tu devi, cioè, parlando infatti, economicamente, con la globalizzazione quello che è successo è che abbiamo letteralmente diminuito i costi di trasferimento di merci e informazioni da un continente all'altro, perché era il fine della globalizzazione, cioè è stata fatta per uno questo. Scambio sociale. Dovevamo creare una fabbrica globale con le stesse efficienze, con le stesse circolazioni, quindi è naturale che tu crei un messaggio semplificato, cioè un linguaggio semplificato al limite dell'idiota, non so come dire, tant'è, cioè, che mi viene da dire, io ho fatto un corso, non so, magari l'esperienza di tutti, ho fatto un corso universitario essenzialmente in inglese, in cui potevano insegnare alle persone che l'inglese non lo sapevano, probabilmente sapevano a memoria solamente quello che doveva essere insegnato in maniera standardizzata e semplice, un discorso di efficienza, nel senso argomentazione che potrebbe portare a quel tumulino. Fatti una domanda più bella. Torniamo alla vuoi la tornare alla più storia. Leggera. Ah, io non so se torno alla storia. Tornate alla storia. Non vuole tornare alla storia. No, fa una domanda che vuoi. No, vabbè. Ma posso fare una sulla storia. Ok, sulla storia. No, ci parli, cioè il personaggio all'interno del romanzo c'è Marco, questo personaggio che a me ha colpito molto, perché all'inizio, cioè, me lo ricordo, io questo libro tu l'hai scritto 6 anni fa, 2. No, che poi. No, 3. No, no, non lo so. Oh, zio, era no. 2018. Ero in Argentina. Io ero appena andato a Firenze, sì, era 5-6 anni fa, secondo me. E dopo così tanto tempo mi ero dimenticato di questo personaggio, che invece, cioè, è particolare e soprattutto poi è fondamentale, io questo mi ero dimenticato, nel processo di cambiamento di mentalità da parte di Edoardo. Però ha delle particolarità come proprio individuo sociale, no? È uno di questi ragazzi italiani che vanno via dall'Italia, viaggiano moltissimo, facendo 2000 lavori, parlando 2000 lingue, ma quando Edoardo gli dice tu sei libero, capito? Perché tu scappi, lui gli dice no, io non sono libero per niente, nonostante appunto sia per noi anche, appunto parlavamo di globalizzazione, di facilità di scambio, per noi in verità dovrebbe essere, secondo la retorica dominante, cioè la persona con più successo del mondo. Perché è una persona che si sa contestualizzare ovunque. Eppure, cioè, il paradosso, la dialettica qui è che, pur essendo quello che in teoria all'interno del sistema dovrebbe considerarsi il più soddisfatto di tutti, è quello che aiuta Edoardo a capire il problema della realtà, in cui paradossalmente lui invece sa muoversi perfettamente. Lui è molto realista. Quindi Marco, se ci puoi dire, cioè, puoi Marco dire in sintesi è un personaggio che è scappato dall'Italia come moltissimi giovani, specie del sud. E ha girato tutta l'Europa, si è fatto milioni di esperienze, parla varie lingue e adesso è in questo ostello, che noi ne abbiamo incontrato uno, non mi ricordo il nome, che l'aveva chiamato Marco. Un ostello? No, che non è anche, dove abbiamo affittato la casa là, ad A. Proprio di c'era chirurgia. Lui che era un giovane, fa cazzo avete 16 anni, siete voi qua, e ci ha raccontato la sua vita, fa tu dove vai, fa sto 2 anni qua, poi chissà. Adesso non me lo ricordo, però c'ero. Era l'unico italiano. Io non c'ero, ma me lo ricordo, quindi perfetto. Vabbè, comunque, quindi questa vita che all'ordine razionale di oggi dovrebbe essere cazzo, hai fatto tutti i lavori del mondo, sai tutte le lingue, invece lui dice, e questo gli dice Edoardo quando completamente lei non c'è più e crolla, un crollo totale ontologico, ma proprio che, cioè, quotidiano. E gli fa appunto questa domanda. Però Marco è molto realista e fa: guarda, io ho fatto tutte le esperienze del mondo, sono liberissimo, ma non sono libero per un cazzo, perché io non so tra un anno dove sarò. Io sono sempre scappato. Uno può dire: cazzo, bravo, sei mille lingue, fa, io ho fatto sempre scelte di comodo. Non mi sono mai formato, non ho mai avuto rapporti passionali con nulla, imparavo bene le lingue, ho girato il mondo per essere trattato malissimo, perché così è il lavoro precario che va in giro. Pagato bene, ma è un'alienazione, perché l'alienazione poi cambia con la realtà, se una volta era quella operaia, adesso c'è anche quella quotidiana di noi massimi liberi, che forse per certi versi non è fisica ma è totalmente mentale come alienazione. E poi gli racconta questo aneddoto, che va in Sicilia, lui era tornato, si innamora perdutamente di una persona, poi scappa, non la rincontra più e ci ripensa per tutta la vita andando in giro. Questa era una roba un po' forzata, perché poi magari può essere anche realista come cosa. Però per dire appunto che la libertà, bisogna vedere da che punto di vista. Già che uno scappa dalla propria terra e non lo fa per passione di un proprio lavoro che può ricercare, ma lo fa per un contesto economico, non è una gran libertà. Se in più per tutta la vita non riesce a fare una roba che a lui piace, questo non è mai successo, cioè, sempre stato difficile, forse prima ancora più di oggi, ma quantomeno non sapere a cosa ti piace, questo è ancora un altro punto di vista sulla libertà, perché lui fa, ma ce ne sono tanti che abbiamo, penso che ognuno di noi girando così conosci, che hanno una precarietà, in Francia tanti hanno una precarietà totale, anno per anno non sanno cosa fare. Eh sì, puoi avere tanti soldi al mese, però se ti manca poi qualsiasi base umana che ti serve di un attimo di stabilità, questo non è un inneggio a stare fermi, ma che devi andare se ti piace qualcosa e non se sei catapultato fuori e sei creduto l'uomo perfetto perché sei ti riesci ad adattare parlando due lingue, perché per il tutto il resto sei rimasto a uno stadio preadolescenziale quasi, cioè non hai ancora scoperto cosa ti piace a te. Ma cioè, a questo anche Edoardo l'ha scoperto. A questo proposito, tu adesso hai parlato di allenazione mentale. A me è venuto in mente un testo di un filosofo del 500, di Étienne de la Boétie, che scrisse questo testo che si chiama Discorso sulla servitù volontaria, e il tema del testo è molto semplice, praticamente sostiene che il potere di un tiranno è dato da quello che noi gli conferiamo, no? Quello che tutti gli conferiscono. Volevo fare questa analogia per parlare, cioè, di molto spesso schemi mentali, schemi conformistici in cui siamo intrappolati, e io ti volevo chiedere, ma è possibile in qualche modo, cioè, tra virgolette, liberarsene? Ti faccio degli esempi: noi viviamo delle vite che sono pesantemente influenzate anche da, tra virgolette, qualcosa di cui non abbiamo piena consapevolezza. Viviamo in un mondo dominato da figure ambigue, ma che conservano, diciamo, quel lato singolare, imprenditoriale, quel lato diverso che noi alla fine legittimiamo, no? Alla fine legittimiamo parlandone, seguendoli sui social network, rendendoli in una certa misura anche quelli che sono. E la mia domanda è, cioè, è possibile uscire da questo e magari dal basso, cioè, cercare di costruire una diversa scala valoriale? La seconda non lo so, la prima è possibile, sì, ma per cosa? Ma sicuramente la realtà è, quindi sta lì, te puoi pensare quel che vuoi, qualsiasi visione. Riesci a ritornare nella realtà? E poi certo che è relativa al nostro punto di vista della realtà, ma la realtà in senso naturale è quella. Su quella sociale uno può avere qualsiasi visione, però quella è, il tempo trascorre con determinati meccanismi. È possibile, sì, ma a quale beneficio è il punto? Prima chi riusciva a cogliere la parte di beneficio, cazzo, era libero, sì, era tre volte più libero. Oggi può essere anche una maledizione. Io con realtà volevo dire, tu prima parlavi anche di sottoculture dicendo che ce ne sono di meno, io volevo riferirmi a quello che dicevo come sottocultura, nel senso tutto un insieme di riferimenti più o meno palesi, ma che ci sono, un sistema di conoscenze comuni, ad esempio il fatto che magari tutta una serie di personaggi pubblici, imprenditori, ambigui, che comunque occupano uno spazio, cioè, nelle nostre coscienze, noi ci riferiamo a loro come qualcosa di vero, di reale, qualcosa che esiste, e molto spesso, questo è quello che dico io, cioè, penso che così facendo alla fine li stiamo legittimando, e molto spesso finendo in questi schemi ne rimaniamo intrappolati. E la paura più grande per me di un, ad esempio, di un giovane che si affaccia all'età adulta di oggi, è l'impossibilità di uscire da questi schemi necessari per poter pensare un sistema e un mondo diverso. E questo è ancora possibile secondo te? Siamo troppo indietro, cioè siamo troppo in ritardo, siamo arrivati a un condizionamento tale per cui è difficile rompere questi schemi? Sicuramente. Un brindisi. No, vabbè, argomentiamo. Salute. Sicuramente, però non bisogna neanche vedere una parte, ma tutto come è possibile. Dice, no, il problema, primo, qual è per me? È che siamo solo apparenza. È proprio quello che volevo arrivare con la mia domanda. Nient'altro, siamo solo apparenza. Questo per me deriva da una matrice economica, perché non abbiamo più un rapporto artigianale con la realtà e col territorio, che c'è sempre stato. Non è, noi ormai vediamo, perché siamo un po' smoderni, quindi sembra che oggi tutto, ma non va bene, però, cazzo, meglio di prima. Ieri era lo stadio della pietra, ma ieri sono secoli di differenza. Questo non è un'epoca vince una e male, è svegliarsi che ogni epoca qualcosa non va. Il fatto che oggi siamo solo apparenza è un'ecatombe per l'umanità, è una distruzione totale per noi stessi. Non è che non siamo umani perché non vediamo più una pianta e diciamo ah, che bella la pianta perché lavoriamo. Può essere anche chi se ne frega uno che non vede la pianta. Il problema è che noi non viviamo di social perché è l'unico modo per dire io esisto. Cosa siamo se no? Avendo solo dei lavori che non hanno un senso pratico. Non è che prima era l'età della pietra e sto dicendo cazzo riprendiamo a tagliare il fieno, no, ma ritorniamo a avere un'economia che si basa sulla realtà. Noi possiamo studiamo perché è una tappa di civiltà, poi andiamo nel terziario, non sappiamo chi è il capo, non abbiamo, noi siamo macchine senza più la nostra parte di lavoro, nella realtà che è la natura, siamo più indietro dell'uomo del neolitico. Quando, prima di scrivere questo libro, avevo letto per diletto, totale diletto, perché io nella parte linguistica funzionale sono un cane con le lingue, quindi per diletto è gioco, infatti ho ripreso molte parole. Moby Dick. No, avevo letto il dizionario italiano. Ah, no, mi ricordo bene. Ed ero rimasto scioccato perché per cultura generale uno apprende che la lingua italiana è fatta a tavolino dagli intellettuali, Manzoni, il nonno Beccaria, Verri. Quindi la corte medicea, quindi l'italiano, poesia degli svevi, Sicilia, bla bla bla. Invece sono rimasto basito, io che non ho alcuna conoscenza funzionale, filologica, non sono in grado, né voglio, proprio probabilmente perché non sono in grado, che un sacco di parole italiane derivano totalmente da dei lingue dialettiche di piccole culture nazionali che erano di provincia. Nel senso, abbiamo un sacco di parole che derivano da antichi dialetti. Il ciangottare, il ciarlare, il chiurlare, chiocciare, sono parole che hanno un senso totale con l'economia di territorio. Quando Pasolino va a girare il Vangelo secondo Matteo, che lo cercò di fare a Israele, poi si è reso conto che era molto più umani Matera che a Israele al tempo, che già trovare Cristo non sulla terra di Cristo. Disse che era molto difficile per noi oggi arrivare a Cristo dalle sacre scritture, perché si basano sui mesi, sul lavoro artigianale, su degli insuccessi, delle sfighe della vita che sono legate al ciclo dei mesi. Ecco, questa è la sberla che mi è arrivata di faccia, e apprendere che l'italiano, che l'ho sempre pensato fatto semplicemente dal Manzoni, ha un sacco in realtà di parole che provengono dal dialetto. Avevo scritto un saggio, che è una delle poche cose, non è così tanto, che mi piace molto, sulla lingua italiana, in cui parto dicendo che trovo cretino chi vuole insegnare il dialetto a scuola, perché è una lingua morta, appunto, come anche il latino. Comunque, è una lingua morta, ma ammettere che è una lingua morta non è una cosa da poco, perché i dialetti, rispetto alle lingue nazionali, hanno pochissime parole. Il loro senso è dato da una frase. Il dialetto cambiava da comune a comune, provincia a provincia, e in ogni citazione dialettale c'era molto del territorio, c'era molto di una chiesa, c'era molto di una cultura, c'era molto di un lavoro pratico. Ammettere che il dialetto è morto, che oggi non ha alcun senso, vuol dire ammettere che una storia economica che è andata per millenni non uguale ma era basata sulla natura, oggi non c'è più. E tu poi mi dicessi, è morto il territorio, viva il territorio. Questo è l'insegnamento del postmoderno, cioè anche se noi ormai siamo solo apparenza, perché abbiamo affidato Cristo ai preti o a parte economica che male interpreta, è la politica radical chic, non si sa dove sia, pieno di ambientalisti in questo mondo, non so dove siano. Qualsiasi, a noi ci compete solo fare il nostro lavoro macchinale, di cui non abbiamo... Un lavoro artigianale è un qualcosa che ti dà una ricchezza, puoi sbagliare, ti dà una contentezza, una formazione, ti dà un modo di portarti avanti, ma il lavoro artigianale non dobbiamo intenderlo come fare un muretto secco, che è molto più valido di uno oggi che sa fare un Picasso. È un'economia che è basata sulla realtà. E... mi sono dimenticato. Se è possibile arrivarci a questo, guarda, ti do una... Se è possibile, è tutto possibile. Non credo che mai ci non lo faremo. Assolutamente no, però per me dovremmo ragionare, dato che non è viva domani, peggio ieri, una merda oggi, è che ogni secolo ha della merda, ripeto. La cosa terribile della quotidianità è che noi, da questa semplice apparenza, è una roba che ci distrugge perché è inumana. Prima, quantomeno, uno riusciva a fare, poteva mettere passione per quel che faceva, era un suo rendiconto, più si impegnava più arrivava. Io penso a un architetto, cioè l'impanto è il massimo del massimo. Brunelleschi non solo pensa una cupola in maniera diversa, addirittura disegna con le macchine per farla. Michelangelo deve far arrivare il marmo, costruisce il porto verso Massa Carrara per far arrivare da lì il marmo perfetto a Roma, cioè c'era magnificenza. Leonardo, per arrivare al massimo, e questa è la cultura che è mezzo, per arrivare alle sue teorie del codice atlantico, andava da solo sulle grigne e catalogava le rocce o le piante. Questa è la cultura che è un mezzo con la realtà. Noi che non abbiamo più in mano un lavoro, questa è una roba terribile. Noi abbiamo fatto, vivendo in una bella sfera, abbiamo detto che nessuno deve più pensare alle materie prime. L'Europa la affida al terzo mondo, le stesse città, gli scali ferroviari prima ti arrivavano sul treno dalla Liguria, da ogni parte, le frutta, la pesca, il legname. Quindi abbiamo messo che noi facciamo lavoro terziario d'ufficio e tutto il resto qualcuno lo fa. Il sogno che l'1% della adesso dico 1%, comunque il 3%, pensa all'alimentazione e tutto il resto fanno altro, è una roba terribile. Uno, perché è antiscientifico, in paradosso. Cioè noi entro il 2040 in pianura padana e Lombardia non avremo più un metro quadro di terreno fertile. E questa è una sberla che ci deve far pensare. Uno, perché ci distrugge. A noi non ci basta essere macchine, facciamo senza passione, senza arrivare da nessuna parte. Abbiamo poi l'edonismo. Cioè finiamo di essere macchine, dobbiamo... fare chissà cosa pur di essere felici. È una roba più economica. Comunque il senso anche del lavoro è che lui crolla completamente, pensa di sapere tutto, lui insegnava scienze, cazzo, si trova nella merda e in mezzo al mare vede un moscerino e dice: ma io non ho mai visto un insetto così, e si mette a pensare a un insetto, non si è mai soffermato, lui è uomo di scienza. È disperato, fa un vecchio sentiero a piede in Norvegia perché deve andare a cercare, lui pensa che, non pensa neanche che la moglie sia fuggita perché non lo sopporta più o per fatti suoi, pensa che l'abbia rapita, si è ammazzata o sia in casa di un altro, da Marco. Per arrivare da lui lo vuole fare un sotterfugio, vuole arrivarci, fa un sentierino, in quel sentierino vede una quantità di animali, di fauna, di flora e dice: cazzo, ma io sono uomo di scienza e non so nulla. Prima era impensabile per un Leonardo, per uno scienziato, per un medico non sapere della realtà. Oggi invece viviamo in questa bellissima cosa di chi non ci rende degno della nostra fatica e quindi siamo solo apparenza. Che ci sembra di essere liberi, ma siamo solo apparenza, perché tutto il resto uno poteva scrivere, in una giornata faceva un foglio e quel foglio dava scalpore, a parte che la facilità burocratica in cui potevi scrivere. Trovavi l'editore, uno voleva pedalare, riusciva in qualche modo, voleva qualsiasi. Adesso non hai possibilità di errore e devi dare delle prestazioni sempre improiettate a un massimo che ti porta lontano poi dalla realtà, che è un esaurimento che è peggio di un operaio di fabbrica, che quantomeno era ancora in un contesto più facile. Poi uno può dire: è una stronzata, però ne hai fatto, ma sono punti di vista, nel fatto uno non sa più da cosa proviene un materiale, un tavolo, quello che mangia quando va in giro e si diverte con la bella Italia. In questo probabilmente non siamo più italiani, noi andiamo in giro. Io faccio sempre l'esempio di Catania, una città bellissima fatta dagli svevi, è stata per poco pseudo capitale, e sono andati poi gli aragonesi. Il barocco di Catania era incredibile, arrivò un terremoto che la distrusse completamente negli anni 60 del 600, la rifanno, che è un capolavoro straordinario, portano avanti le esperienze di Bernini e Borromini che erano molto in contrasto, il barocco romano arriva a Catania in una chiave sveva, quasi gotica, e rifanno una meraviglia. Noi adesso facciamo i musei, salviamo Venezia, ma la precarietà è più forte di prima, quindi se oggi Catania venisse giù, è una scossa, dovrebbe arrivare nel prima o poi, se non troppo lontano, noi saremmo in grado di ricreare bellezza. Se uno mi dice abbiamo gli strumenti, certo che abbiamo gli strumenti, noi sappiamo i batteri per mangiare la plastica, l'inquinamento, sappiamo costruire senza più cementificare, sappiamo, abbiamo i materiali migliori al mondo, ma nella pratica, questo è l'1% della nostra società, nella pratica noi continuiamo a agire come negli anni 50 e sappiamo solo distruggere, non sappiamo più creare bellezza. Venezia è sempre stata distrutta da un suolo sotto palerie di castagno, calcestruzzo e robe, ogni tot si distruggeva la pavimentazione marmorea e si rifaceva per l'acqua alta. Oggi noi non possiamo più toccare neanche un capitello perché non siamo più in grado di fare quello, che sembra un paradosso, ma noi andiamo nella bella Italia a mangiarci una pizza, a vedere lo scorcio sul mare, a fare la foto per dire noi siamo parte di... ma noi siamo completamente degli alieni. Un muretto a secco forse oggi è più una grande opera d'arte che uno che sa rifare un Mantegna o qualsiasi altro grande. Quindi il problema è questa nostra lontananza alla realtà, che uno può dirmi, io lo stesso faccio il mio lavoro, poi mi so divertire, ma lo scontro con la realtà l'avrà anche lui, perché pensare che due cristiani pensano all'alimentazione o uno Stato pensa al Made in Italy, uno Stato pensa essere grano, e ti scontri poi in economia con i problemi. È che allo stesso tempo, cioè, questo discorso che tu fai su, cioè, io sono d'accordo col fatto di recuperare vicinanza con la realtà e di identificare la realtà con ciò su cui tu puoi avere un impatto, su cui tu puoi avere un'influenza effettivamente, che poi, cioè, nella storia questo impatto, questa influenza tu ce l'hai nel luogo in cui tu sei fisicamente, cioè va bene che le rivolte di Piazza Tahrir si sono fatte sui social, va bene che adesso abbiamo mezzi per fare campagne e far girare informazioni per tutto il mondo, però vabbè, cioè, tornando a Piazza Tahrir, cioè, le primavere arabe tu le fai in piazza, tu determinate cose le fai nel luogo in cui tu puoi effettivamente impattare, quindi le preoccupazioni ambientali, va bene preoccuparsi della foresta amazzonica, però è solo apparenza nel momento in cui tu invece non ti rendi conto che la pianura padana è uno dei luoghi più inquinati d'Europa. O salvare il panda quando ogni anno perdiamo una o due specie floreali in Italia. Esatto, però allo stesso tempo, cioè, non sono molto convinto che l'artigianato, cioè come forma di organizzazione proprio economica, sia una cosa fattibile, perché vedo difficile come non renderla una cosa elitaria, capito? Cioè, quello che tu hai fatto l'esempio di Catania, no? Però Catania, parliamo di regni, capito? Parliamo di concentrazioni di risorse importanti, quindi, vabbè, come dire, ma artigianato non immagino uno con la pialla, con le corporazioni, esatto, come voleva il Duce. Dico semplicemente dare la ricerca scientifica non l'1% del nulla, ma il 100%, cioè l'idea che... E questo è anche Plinio il Vecchio. No, perché, cioè, te lo dico anche un po' per provocarti, perché, cioè, è un punto su cui secondo me con la maggior parte dei calindiani potremmo dire. Certo, certo. Ma semplicemente solo, dire, cazzo, siamo negli anni che siamo, perché dobbiamo continuare a costruire le case come negli anni 50 con un cemento che dura 30 anni? Sapendo che ogni secondo, questo ci tengo sempre a ripeterlo, 2 o 3 metri quadri vanno in fumo fertili, e per ricrearli ci si impiega 500 anni, lo strato più di biodiversità è il primo superficiale. Noi sappiamo come sopravvivere, abbiamo una libertà che non ha mai avuto nessun uomo, nessun potere o politica o secolo. Perché dobbiamo ostinarci a distruggere la natura in maniera così cretino e a prendere poi uno schiaffo economico e scientifico? L'artigianato non rifare le corporazioni che ognuno si fa al tavolo, che uno si scambia l'asino con la moglie, dare il massimo però nella parte di ricerca. noi abbiamo dei materiali, ma anche per esempio Catania è venuta giù, mi è venuta in mente Palmira. Palmira è un capolavoro dell'umanità, in neanche un anno con la stampa 3D l'ha rifatta. Palmira in Siria? Sì, che l'hanno rifatta con le stampante 3D in un metodo pseudo biodegradabile. Questo è un esempio che noi abbiamo le capacità. Non è proprio artigianale, però in realtà potremmo arrivarci anche a renderlo un po' più umano, e che non c'è nessuna voglia di uscire dallo stato delle cose. Quello che prima spingeva l'uomo a fare meglio era scappare dallo stato della cosa. Leonardo, che non imparava male a scrivere, non cresciuto in campagna, che deve andare a Firenze perché vuole migliorare, Perugino che deve arrivare a Firenze per portare in giro la bellezza, voleva arrivare al meglio per allontanarsi dallo stato delle cose. Noi oggi non pensiamo possibile, quando ti dicono ci sono dei problemi ti dico vabbè, ma ieri mio bisnonno coltivava, non aveva neanche, non poteva neanche andare al mare, io ci vado, che cazzo me ne frega. Il problema è che ci manca quella parte di scontro con la realtà. Quindi non in senso corporativista artigianale, anche in senso completamente produttivo, ma che sia biodegradabile in maniera vera. Cioè noi oggi sappiamo, avevo fatto il muretto a secco, noi oggi sappiamo che siamo postmoderni, siamo liberi, abbiamo le conoscenze storie, sappiamo che un muretto a secco ha una potenzialità economica, naturalistica pazzesca per la termo, per se c'è un vitigno, per, rispetto al cemento, per il calore, perché tiene il paesaggio, perché un sacco di animali ci fa la tana, perché è bello. Noi oggi ci facciamo una foto dicendo guà che bello, ma noi non sappiamo quello guà che bello cosa vuol dire, non siamo neanche più in grado di mettere due pietre una a fianco all'altro. Siamo tutti non come individui, come individui, come società, come preparazione tecnica. Cioè, se tu chiedi all'impresa edile, fammi un muretto secco. Non lo sa fare quasi. Okay. Oggi fare un muretto secco, quei pochi specialisti che lo fanno chiedono una quantità di soldi pazzeschi. Ed era prima la base. Per dire, insomma. Cioè, oggi il problema è che oggi per avere il bello, bello che arriva a tutti, devi avere una parte di capitale perché nessuno sa farlo. Noi quando pensiamo a un paesaggio che viene giù, un pezzo di prato, per ogni secolo un pezzo di prato era un valore aggiunto, l'erba era il petrolio di prima, potevi metterci quel che volevi produttivo, adesso cosa serve? Nulla, perché noi non abbiamo più contatto con la parte reale e quindi non dobbiamo tornare all'artigiana a livello, cioè proprio rudimentale come uno se lo può immaginare etichettandolo, dobbiamo ripensarlo anche in maniera industriale. Ma è vero, abbiamo dei vuoti urbani, questo vuoto urbano possiamo renderlo di una produttività incredibile, non abbiamo più terreno, sappiamo che il riso ormai continuare a riempire d'acqua è un problema che rilascia un po', che non è il massimo per l'atmosfera, occupa spazio, serve tanta acqua, lavoriamoci in laboratorio, possiamo fare, abbiamo dei progetti incredibili che sono poche robe per farlo all'interno di uno spazio chiuso. Cioè noi abbiamo una quantità di robe che ci sono riuscite in pazzesche, ma sono lontane dalla parte economica. Ma allora posso chiederti, perché tu adesso hai citato lavorare in laboratorio sul riso, no? Per dire. Però paradossalmente, cioè, il discorso, ti lancio un'altra semiprovocazione, il discorso di Pasolini viene, cioè la teoria di Pasolini, poi per quanto si possa semplificare, viene spesso contestata dalle stesse persone che adesso si auspicano un cambiamento, perché viene interpretato come tu dicevi la critica di Calvino, no? Adesso, cioè, per esperienza, molte cose che a livello scientifico ti potrebbero portare ad una diminuita, cioè a un minore impatto ambientale dal punto di vista energetico, penso al nucleare, penso agli OGM che ti stanno, cioè, permettono delle coltivazioni con minore utilizzo di risorse, capito? Vengono osteggiate dalle stesse persone che in teoria dovrebbero, come dire, avere a cuore invece questa dimensione, cioè come si concilia il progresso e la ricerca per affrontare le sfide che ci sono, capito, con tutto il resto. Queste sono domande importanti. No, lo so, però già che ci sei, non lo so. Bene, è un punto questo. È un punto. No, però mi fa piacere che tu hai parlato di ricerca comunque, perché, cioè, non è... Perché sennò potrebbe sembrare, capito, una posizione amante del passato in maniera abbastanza critica. Assolutamente. Dai, fammi un'ultima domanda sul... No, ma spezzando una lancia, cioè il fine penso sia, cioè, la ricerca è già di per sé il fine, nel senso non penso che qua nessuno si stia, cioè, tra virgolette, ponendo con le risposte in tasca, anche coerentemente, cioè, secondo me quell'idea di letteratura proposta, cioè, nel senso, è porsi le domande giuste, che per me si è già metà dell'opera, cioè ponendosi le domande giuste, poi probabilmente l'altra metà è trovare anche delle buone risposte, però secondo me mi sto collegando a questo tema poi facendolo mio, però molto spesso secondo me i problemi anche sorgono dal momento in cui c'è la percezione dei problemi, dico anche tra le persone appartenenti a una stessa categoria sociale, a una stessa età, cioè sono molto diverse, cioè ogni tanto il problema e quindi il sogno di tanti adolescenti, giovani che vogliono cambiare il mondo è risolvere una battaglia, per carità, validissima, ma magari circoscritta nel loro piccolo schema, no? Io molto spesso, sai, molto spesso penso, cioè, a battaglie e a battaglia. Ah, pensiamo a tutte le battaglie. Sì, dai. E poi. Vai, comunque una roba sul libro. Io credo molto che bisogna tornare a leggere dei romanzi. Noi avevamo una grande cultura che è stata completamente distrutta, che è stato il neorealismo. A parte che nessuno scrittore si è mai definito neorealista. Abbiamo con le nuove avanguardie nel 63 distrutto personaggi come Moravia, che invece adoro, e trovo che bisognerebbe riprendere a leggere dei romanzi. Io adoro ancora di più Cassola parla di storie d'amore, piccole realtà di territorio, storie d'amore ambientate nel suo contesto. Questo è molto, lo dico assolutamente, è molto pensato a Somma, perché l'ho fatto per me e perché sento il peso del postmoderno, forse più colpevole sono io in questo. Cassola è molto più leggero completamente, parla di una sua storia d'amore nella sua bella zona lacustre. Noi abbiamo, penso, molto come cultura, come mezzo, bisogno di queste storie di vita che ognuno può dare per riambientarci nella quotidianità. Leggendo i romanzi degli anni 50 sono molto più leggeri, le nuove avanguardie non hanno prodotto un cazzo, hanno giocato su non hanno fatto nulla, hanno distrutto i mostri sacri, che non erano mostri sacri negli anni 50. Trovo che in quei romanzi lì invece, che non erano per nulla i politici, ti danno uno specchio di realtà della quotidianità dell'Italia che è molto bello, con leggerezza. E mi piacerebbe, io punto tanto su rilanciarli, perché sono dei romanzi assolutamente leggeri che ti raccontano una storia di vita normale, può essere borghese, contadina, sono belle storie, e proprio perché con la ritornare sul Novecento con la politica non ci salviamo e non ne usciamo. Perché sempre tu sai, tu non so, non ne usciamo, perché o chiudi uno in una stanza un anno e si studia storia contemporanea o non ne esci. Se invece si parla di paesaggio, storia, sull'amore che arriva a tutti, forse dà un po' un qualcosa a dirmi, ma forse possa migliorare questo. Bisogna partire territorio per territorio. Se pensiamo ai massimi, al scontro politico in senso partitico, non ne arriviamo più. Se invece si ritorna a un contesto molto più quotidiano, paesano, forse uno può mettere in maniera molto umile delle proprie idee e partire poi dall'amore, che può essere l'amore per un campo, per la moglie, non è male. Ragazzi, secondo me stiamo viva Cassola, ci siamo. Basta, per me ci siamo. Voi avete questioni? Sì, vai. Però abbastanza puntuali. Ci sta. Alla prima è una considerazione stilistica. Io ho letto mezza pagina del tuo libro Matte e Tommy. Non so se ricordi. Non so, sarà perché io non amo particolarmente D'Annunzio, ma ho trovato questo stile per me un po' respingente. Quindi volevo capire se c'è una motivazione un po' più profonda o un pochino più ragionata rispetto al fatto che invece sia uno stile che a te piace. Non so, invece magari semplicemente ti trovavi comodo o ti veniva di scrivere così. E la seconda invece è sempre legata al territorio, sulle tue fonti, cioè se... Come hai costruito quella fauna e quella flora? Ok, ci sei stato, ma non so, hai anche approfondito, hai detto qualcosa, hai cercato un secondo argomento che so che ci accomuna. La prima è più facile. Beh, la prima non è assolutamente il libro un inneggio ad Annunzio, né come scrive. A me piace, a quel tempo avevo letto, 5-6 anni fa, non mi ricordo più, Il Gattopardo, che è un libro che a me piace tantissimo, e Il Gattopardo è uno stile ricercato. Ma non perché vuole essere ostico, gli piace quella parte di descrizione come D'Annunzio. D'Annunzio a me piace fino ai romanzi fino all'Ottocento, quando ha molto di Dostoevskij, poi inizia con il nazionalismo e cocaina e fa cagare, è tutto retorico. Le due cose che odio di più. Nella parte di fine 800 invece mi piace. Trovo che si sia completamente fatto una distruzione sul personaggio quando in realtà da un punto di vista... No, ma io non ce l'ho con... No, assolutamente. Perché tu hai scelto quella... Dunque, cioè, ho parlato di D'Annunzio perché mi è venuto in mente, c'è Tommaso Lampedusa, non è una roba su D'Annunzio. No. È ricercato, sì, è ricercato, per... non saprei riscriverlo e né lo riscriverei così. Quando anche Moravio gli fece la domanda sugli indifferenti che ha segnato con Ossessone di Visconti un'epoca, lui fa, guardate, io l'ho fatto, non saprei rifarmi uguale, era il periodo che mi andava così. In quel momento leggevo tanto il dizionario italiano, un po' sui dialetti, mi hanno colpito alcune parole dialettali e mi piaceva quella descrizione. E poi c'è anche tanto di ritrovare la poesia in ogni parte quotidiana. C'è lui che vede alcuni scenari che dice, cazzo, per dare proprio la rottura totale. Inizialmente è pesante, è pedante, più che pesante, proprio perché lui prende la cultura come fine. Cioè lui, pur di andare a letto con lei per quella sera, che sa che c'è la vacanza, gli fa degli aneddoti molto d'annunziani, sono completamente elitari, ma che lui li fa perché vuole lei, non sa un cazzo di quell'aneddoto. Dopo invece cambia un po', infatti prima inglese, c'è molto di storia dell'arte, dopo subentrano più i dialetti, le cose sulla natura, proprio perché mi piaceva di più quella ricerca di vocaboli. Sì. No, dopo è meglio, sì, sì. Quando lei sparisce lì diventa più di critica. Altre. E sulla seconda della formazione non saprei, è stata, mi ha dato molto disturbo i primi anni perché mi ha fatto proprio essere un po' al di fuori, sia dell'istruzione, perché ho avuto anche delle, ho sempre subito tanto l'istruzione, e sulla parte naturale l'ho avuta non lo so, e tanto passione. Internet mi ha assolutamente aiutato, ci sono dei blog di appassionati di botanica, di muretti a secco, ci sono degli scambi che sono incredibili, ho conosciuto persone, quei pochi ornitologi che ci sono, e poi faccio molte domande con gli agricoltori, così un po' letto, ma non tanto, proprio perché io ho un handicap totale in matrice chimica, ho tirato arrabattato, ci sono arrivato con la parte umanistica, non con una matrice scientifica. Hai fatto il giro? Sì, ci ho piegato un po'. Altre domande? Scusa Federico, io l'ho letto come un romanzo al giorno d'oggi dalla crisi della coppia. Questo ho capito che fosse il nucleo del romanzo. E ho pensato, ho affrontato la crisi delle coppie borghesi dei film degli anni 60, della fine degli anni 60. Penso ad Antonioni così. Lì la coppia andava in crisi ed erano silenzi, incomunicabilità e così. Qui invece è una crisi, non so, viene fuori da una banalità, credo, dei rapporti e dell'essere dei due. Lui non si accorge neanche, non si aspetta che lei abbia altri bisogni. Era questo che volevi significare. Sì. La prima parte che è più pesante è che lui, che tramite la cultura come fine cerca di accalappiare lei, quando lei va via lui si rende conto che non ha senso tutto quello che usava per accalappiarla, perché nel fin dei conti non la conosce, e quindi anche se sua moglie, se sono passati i tempi, si rende conto che sì, non hanno avuto figli perché alla storia come il cane, non c'è tempo di via a lavorare, senza parlarne, non conosce nulla della sua realtà piemontese, e non si è neanche posto il problema che lei sia scappata perché non stesse bene, quindi sì. Ci sono altre domande? Una domanda, cioè, sul discorso di prima della questione del fatto che la società di oggi o l'uomo di oggi vive soltanto di narrazione, soltanto di social, di poterlo postare, di poterlo raccontare. E, la mia percezione è che questo è vero, ma fino a un certo punto, nel senso che poi magari perché sono anch'io, cioè, mi sento più dall'altra parte, mi sento diverso da questa cosa, sono sicuramente scarso dai social e tutte queste cose. Però la mia percezione è che anche in chi comunque usa molto queste cose, ha molto la cosa di narrare quello che fa, di doverlo dire agli altri, in realtà quella roba lì non è abbastanza, cioè che comunque c'è bisogno di un dato grande, importante, di essere reali, di sentirsi reali nei rapporti con le persone, e che quella cosa lì sì c'è, magari c'è per scopare, per parlare con la gente, per farsi amici, scusate, però poi alla fine in realtà quello che conta sono le persone e le cose reali. Non so se è una mia percezione sbagliata, però faccio sempre un po' fatica a dire, ad accettare il fatto che siamo una società di social network. Cioè a me quella sembra una narrazione e non tanto un dato reale, però non so se è perché mi sbaglio. Non è neanche una domanda, è più un'affermazione, cioè, io la vedo in questo modo. No, ma su questo lo penso come te. Infatti non volevo assolutamente, perché non ho né capacità né voglia, commentare il fenomeno social, il fenomeno internet. Credo però che non si possa neanche dire come negli anni 80, cazzo, è la salvezza, perché sono passati degli anni, ci sono state delle problematiche sull'informazione, eccetera, sulla dipendenza, eccetera, eccetera. Credo che assolutamente la realtà vera sia altra. Noi rimaniamo su questo affettivi con l'amore, non sei delle macchine come molti giapponesi che non escono di casa e stanno solo sui social. Non è che siamo tutti grigi e rincoglioniti. Dico, il problema qual è? Perché chiunque di noi li usa, che è anche un bene, non è bene o male, non voglio parlare del fenomeno social. Dico che la loro però importanza è l'apparire, perché noi non riusciamo ad apparire nel livello sociale, perché la cultura non è più un mezzo. Noi a livello sociale abbiamo una difficoltà totale, perché la parola non è che conti tanto, sul territorio non hai tutte le sberle in faccia se te ne occupi a livello economico e sociale, e questa è una roba di distruzione, perché noi abbiamo un edonismo, abbiamo delle capacità di vacanze, di divertimento, perché noi dobbiamo dimostrare in qualche modo di essere, quando invece uno poteva impegnarsi a scolpire, a fare una casa, a studiare. Oggi Leonardo da Vinci non scriverebbe per un cazzo il Codice Atlantico, probabilmente sarebbe un bravissimo suonatore perché era eccezionale, lavorerebbe come ingegnere e si farebbe i cazzi suoi. Ma perché? Non è che prima nasceva l'intellettuale intelligente e adesso nascono dei coglioni. È il clima culturale che ti fa essere preponderante. E cioè Leonardo, se non avesse avuto la Firenze dei Medici, sarebbe rimasto in campagna, sarebbe stato, magari avrebbe un mezzogeno, però per fare la spremitura dell'olio, era economia artigianale. Ma chi cazzo glielo faceva fare di andare se non c'è il contesto economico? È quello. Credo che oggi sia molto a parire per questo, perché mancano delle premesse. Non è che non puoi, ma fai una difficoltà che è terribile. E quindi l'edonismo invece ti dà la possibilità di dire: no, io ci sono. Prima potevi manifestarlo con un giornale, con un'opera pittorica, con impegnandoti, potevi stare mattina e sera a fare un qualcosa. Oggi non è che conti tanto, perché a livello di lavoro è molto lontano dalla materia. E poi raramente lo fai secondo la tua, cioè, non lo so. Noi abbiamo molti lavori creativi ormai, anche perché, cioè, se dovessimo contare solo su manifattura o altro saremmo alle pezze, però raramente tu ti ritrovi a fare un lavoro creativo seguendo delle tue pulsioni, anzi molte volte ti ritrovi a fare un lavoro creativo per propositi commerciali, perché ormai è quello che ti ritrovi. Tutto ha senso se a livello economico e sociale ci sono delle promesse, se no non è che sono tutti dei titani pazzeschi che devono chiudersi, fare una vita di merda per arrivare a delle robe. Chi cazzo glielo fa fare? Punto di domanda. E su questa ci siamo. Grazie a tutti. Offri da bere? No, stavo per dire sì. Offri l'associazione. Io ce l'ho fatta. L'ho capita da ora, raga, dobbiamo farlo anche con altre persone. C'è cazzo, la gente a cazzo. Secondo me, guarda, che un attimino più sul pezzo, ragazzi, però, eh. Stato in che senso? Nel senso che devo leggerlo sto cazzarola di libro. Cosa vuol dire? No, ma seriamente, no, cioè, no, abbiamo anticipato tante cose, cioè. Non riesco a trovare il termine giusto, diciamo dispersivi, nel senso, rispetto a...